Sono la più bella banconota. Acquisto un'identità. Sono la più bella banconota. Do lavoro a chi mi fa girare. Più bella banconota, ti do da vivere al 20% ed occupo il tuo tempo a 90. Diversa come l'universo, la mia bocca scolpita è un dramma per il tuo sguardo di pietra. Guardo scolpito è un dramma per la mia bocca di pietra. Diversa come Sono bella, banconota.